Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi parliamo di Se tu fossi qui, romanzo finalista al premio Campiello, scritto da Maria Pia Mirati, pubblicato da Cairo. Protagonista un uomo, Matteo, che perde la moglie a causa di una malattia. Sconvolto, inizia ad interrogarsi sulla loro vita comune. Inizia a pensare di non aver mai conosciuto veramente la moglie. Inizia a pensare che lei gli nascondeva qualcosa. Ma ecco come l'autrice parla del protagonista. Matteo è un uomo di circa 40 anni, quindi è un uomo a metà della sua vita, ma è metà della sua vita per essere comunque la miglior parte della sua vita, che improvvisamente viene gettato nella tragedia per il lutto che forse raramente qualcuno si aspetta, il lutto, la morte della moglie che avviene all'improvviso, senza alcun accenno precedente. Questa cosa naturalmente che avviene all'inizio del libro, quindi nelle prime due pagine, in realtà è una sorta di incidente, perché il libro possa, e Matteo possa, dopo aver elaborato il lutto con tutte le sue fasi, ricominciare a vivere. Matteo è una persona normale, se vogliamo definirlo così, è un uomo borghese, vive una vita borghese, al suo lavoro, la sua famiglia, due bimbe piccole, un uomo che però nasconde una serie di piccole spie che naturalmente all'interno del racconto piano piano si svolgeranno e che ricostruiranno un personaggio difficile, particolare, un uomo che io definisco inautentico. In realtà la morte della moglie, una donna giovane con due bimbe piccole, non fa altro che aiutare Matteo a recuperare una sorta di vita anteriore, quindi che parla del suo passato, un passato, ripeto, difficile, e proiettarlo in una vita posteriore, proiettarlo in una vita posteriore che sia però autentica. Ecco, Matteo deve ricostruire la sua vita, ma anche quella della moglie, cioè gli vengono dei dubbi su quella che è stata la vita della moglie, ha la sensazione di non averla mai conosciuta veramente. Sì, è importante questo passaggio che lei mette in rilievo. In realtà Luisa esiste, cioè Luisa muore subito ed è un gran pugno nello stomaco, se vogliamo. Matteo non fa altro che ricostruire in assenza la figura di questa donna, quindi Luisa c'è. C'è un personaggio, è un personaggio assente ma esiste, continuamente rielaborato, rifatto, ricostruito, come ricostruito sulla sabbia, cioè ne ricostruisci un pezzo e va giù un altro. Matteo però si accorge che questa sua ricostruzione, capisce anzi lentamente, in questa ricostruzione Luisa sfugge, perché ha lasciato a Matteo un'eredità di strani equivoci. In realtà poi il libro avrà un escamotage, se vogliamo, che è anche che io definisco tecnologico, attraverso il quale Matteo entra nella seconda vita di Luisa. Tutto il testo, poi, oltre che parlare di un tema così difficile che noi consideriamo ancora un tabù come la morte, è il recupero di un rapporto difficile tra due persone che sono sposate. Quindi è la difficoltà di capire e di conoscere due vite che si sono incontrate, si sono sposate, hanno messo su famiglia e che non riescono mai a comunicare in maniera reale tra loro. Spesso si ha la sensazione di non conoscere veramente la persona che ci sta accanto, è un po' questo il tema intorno al quale gira il romanzo. Sì, è anche questo, ci sono altre tematiche come la malattia, ripeto che secondo me invece è una tematica importante, perché poi scopriamo nel romanzo che Luisa è malata di una malattia, ahimè, diffusa, che è il cancro, e che appunto Matteo non sa. E poi c'è questo grande tema dell'amore, dell'amore incomunicabile, c'è la difficoltà di due persone mature, grandi, che hanno risolto tante, diciamo, questioni quotidiane come il lavoro, che però non riescono, pur vivendo costantemente insieme, dormendo insieme, facendo i figli, non riescono in realtà a centrare le loro autenticità, no? Non riescono più a un certo punto a comunicare. In realtà ognuno di loro è come se ricavasse una vita propria, evitando che l'altro possa accedere a questa vita propria. È un po' quello che succede, purtroppo, credo, a molti di noi. E non vorrei sempre banalizzare i discorsi dicendo un problema di una nostra società, corriamo, la fretta, le cose. C'è anche questo, c'è anche il fatto che l'inautenticità dei rapporti, mi piace tornare su questa questione, appartenga ai nostri tempi, cioè appartenga a tempi difficili per la comunicazione tu per tu, per la comunicazione anche amorosa, sentimentale, ma ci deve essere dell'altro, cioè sicuramente un esasperato soggettivismo, individualismo che ormai ci caratterizza, cioè noi siamo in questo mondo convinti di essere inalterabili e unici. In realtà Matteo scopre che non è possibile, che quando pure pensi di aver tutto progettato, pensi di essere unico e inalterabile, qualcosa nel destino può accadere. Matteo quindi si rende conto che c'era stata una grande mancanza di comunicazione fra lui e sua moglie. Come vive questa consapevolezza? Male. Male, come credo possa vivere qualsiasi uomo, qualsiasi donna, nel momento in cui scopre che c'è dell'altro nella vita e della persona che ami. Però ci sono delle responsabilità di Matteo. Cioè Matteo in realtà è un personaggio complesso che, messo di fronte a questa terribile discesa agli inferi, non solo è costretto a fare dei passi per riuscire dal dolore, per superare il dolore, quindi elaborare il lutto con dolore, ma anche con la rabbia. In realtà Matteo è un personaggio che a un certo punto odia la moglie perché si sente tradito profondamente da questa mancanza, da questa fine. E, è un uomo che lotta non solo per recuperare una vita sua fatta anche di quotidianità, perché è un uomo lasciato solo con due bambine piccole, e quindi significa che deve ricostruire una vita a partire proprio dal quotidiano, dalle cose normali, da come faccio da mangiare le bambine, da come le porto all'asilo eccetera, ma deve poi ricostruire una vita sua, cioè deve, nel suo cervello deve ripartire da perimetri diversi. E Maria Pia Mirati, insieme agli altri quattro finalisti del Campiello, sarà giovedì 21 luglio a Spello, in Umbria, venerdì 22 luglio a Punta Ala, in provincia di Grosseto. Anche per oggi è tutto, vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it, anche in versione podcast. Un saluto da Alessandra Tedesco.